5D. Ascolta e trasforma. Il corso è facile. Il corso è difficile. Il ragazzo è forte. Il ragazzo è debole. La signora è gentile. La signora è scortese. La comunicazione è utile. La comunicazione è inutile. I film sono interessanti, i film sono noiosi. I maglioni sono grandi. I maglioni sono piccoli. I bicchieri sono pesanti. I bicchieri sono leggeri. Le luci sono accese. Le luci sono spente.